Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e trasmettiamo, come vi abbiamo già annunciato anche ieri, da Cernobbio, Villa d'Este, dove è iniziato la prima giornata di lavori del workshop Ambrosetti, presenti numerosi ministri, economisti, manager, non solo italiani ma anche e soprattutto europei. In questi tre giorni si alterneranno il Presidente della Banca Centrale Europea Trichet, i commissari europei Almunia e Rehn, e anche il Ministro delle Finanze tedesco Schäuble, i ministri italiani poi Tremonti, Romani, Gelmini, Maroni, Brunetta, Frattini. Domenica arriverà anche la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e poi gli economisti già presenti in buona parte oggi, Mario Monti, Martel Feldstein e Nuriele Rubini. Ovviamente il tema non poteva che essere la risposta dei vari paesi, Italia in primis, all'attacco ai debiti sovrani che vi è stato tra fine luglio e agosto, ma anche e soprattutto l'attualità di questi giorni, di queste ore potremmo dire, con una manovra finanziaria che è stata duramente criticata dalla Confindustria, la direttiva di Confindustria ieri e oggi con nuovi rilievi anche per quello che riguarda la parte sull'evasione fiscale. Ne parleremo con numerosissimi ospiti, dal amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti al numero uno del gruppo Brembo, nonché vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, il numero uno di Intesa San Paolo Corrado Passera e anche il presidente di BNL Luigi Abete saranno ospiti nei nostri studi. L'altra notizia però, al di là degli scenari e delle risposte che arrivano dalle tensioni, riguarda, e mi dispiace se ieri con il mitico Giulio Sapelli siamo stati anche un po' preveggenti, la reazione che sta arrivando dai mercati finanziari. Allora, Milano perde quasi il 4% adesso ed è tra le peggiori in Europa. I titoli, come immaginabile, più penalizzati sono quelli bancari. La Popolare di Milano perde il 6,70%, UbiBanca il 6,60% e ancora il Banco Popolare cede il 5,50%, Unicredit il 5,30%, Generali il 5%. Per andare su titoli non bancari citiamo Buzzi Unice meno 6,40%, Exor meno 6,15%, Prismia meno 5,60%. C'è una risposta netta dell'Europa a quello che è dei mercati, scusatemi, a quella che è anche l'incertezza che in qualche modo si muove all'interno di questa manovra finanziaria. Ieri eravamo stati facili, e l'altro ieri facili profeti nel ricordare quanto ormai da due giorni Financial Times e Wall Street Journal stessero attaccando duramente in prima pagina la manovra finanziaria italiana, l'indecisione della classe politica, la debolezza, diciamo, dell'esecutivo, temendo, dicevamo ieri, che questo sarebbe stato il là ai mercati, o perlomeno il primo squillo di trombe per i mercati, per tornare a vendere Italia. Ahimè, così sta avvenendo, meno 4% appunto l'indice, l'euro sul dollaro è a quota 1,4201, tra i titoli che vanno meno male segnaliamo Enel Green Power che perde solo l'1% e Campari che perde solo lo 0,70%, Parmalat e Bulgari invariate, negativa invece Eni meno 3% in questo momento ed Enel meno 4,20%. Chiuderei su Intesa e Fiat, Intesa San Paolo meno 4,56, Fiat meno 4,84 su Fiat Auto, meno 5% su Fiat Industrial. Alcuni possono dire ci risiamo, non so se ci risiamo con l'attacco all'Italia in primo luogo, quello che è certo è che in questo momento la reazione di tutti i mercati, alla luce anche di una lettera che è arrivata, la borsa ha continuato a peggiorare lungo tutta la seduta, una nota che è arrivata dall'Unione Europea sulla manovra italiana. L'Unione Europea intorno a mezzogiorno ha detto di essere preoccupata per la rilevanza che viene data all'interno della nostra manovra dal gettito che arriverà dalla lotta all'evasione fiscale. L'ha detto il portavoce del Commissario per gli Affari Economici e Monetari Olli Rehn, che appunto sarà anche presente qui al workshop Ambrosetti. Tradotto in termini vuol dire che le entrate fiscali dovute alla lotta all'evasione sono per definizione aleatorie, ossia non si sa bene quanto arriverà. Già ieri Befera, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, aveva detto che dal condono e dal concordato fiscale del 2002 erano arrivati 1,5 miliardi, 2 miliardi in meno rispetto alle attese, di cui alcune difficilmente esigibili, e cioè chi ha fatto il concordato ha pagato le prime rate ma non necessariamente quelle seguenti, e questa dimostrazione che poi quando ci si attendono dei soldi dalla lotta all'evasione si può immaginare, sperare che siano quelli previsti, ma la certezza è un'altra cosa. Su questo è preoccupata l'Europa, che chiede poi anche all'Italia di andare avanti con la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Dicevamo della Confindustria, che si è detta oggi sconcertata per le misure di contrasto all'evasione fiscale previste nell'emendamento presentato dal governo. Confindustria condivide l'obiettivo di una seria ed efficace lotta, ma le misure presentate ieri risentono, leggiamo testualmente, della fretta e dell'approssimazione con cui è stato predisposto l'emendamento. Il ministro Tremonti oggi ha detto che il condono sarebbe, non vi sarà nessun condono, sarebbe una tantum, e ha negato che vi sia uno squilibrio eccessivo tra la componente fiscale rispetto ai tagli alla spesa pubblica. Ascolteremo varie indicazioni su questo e racconteremo anche la giornata oggi con i nostri ospiti. Prima di tutto però mi sembra importante andare rapidamente con le altre notizie in breve. Solo per aggiornare sull'oro, che è a 1828 dollari l'once, di nuovo in aumento. Il prezzo comunque ad agosto è stato del 12% più alto rispetto a un anno prima, e questo è il dato definitivo. Il petrolio apre invece ancora in calo di quasi il 3%, 86,3 dollari al barile. Un dato brutto arriva dall'America: il numero degli occupati è fermo, la disoccupazione resta ferma al 9,1%. Ed è rimasto invariato per la prima volta dal 1945. Gli analisti si attendevano almeno la creazione di 70.000 posti di lavoro, invece non è così. L'America non ha creato nuovi posti di lavoro nel mese di agosto ripeto, la prima volta dal 1945. Nel frattempo il rendimento del Bund tedesco a 10 anni, BTP tedesco a 10 anni, va al minimo da quando esiste l'euro, e questo vuol dire che la Germania viene considerata sempre più affidabile, non il contrario: più calmi i rendimenti, meno costa uno Stato indebitarsi. E invece purtroppo la differenza tra quanto rende un nostro BTP e quanto rende l'equivalente tedesco è tornata ad aumentare, ed è tornata ampiamente sopra i 300 punti. A 324 punti lo spread, un livello purtroppo che ci riporta ai giorni peggiori, ripeto, tra fine luglio e inizio agosto, quanto a tensioni sul debito italiano. Certo, poi è intervenuto il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel a dire: noi abbiamo piena fiducia sulla manovra italiana, e anche con i recenti cambiamenti siamo fiduciosi che l'Italia approverà le misure necessarie per rispettare il risparmio previsto e per arrivare all'azzeramento del deficit nel 2013. Allora, nel frattempo qui a Cernobbio, per la prima giornata di lavoro del workshop Ambrosetti, come ogni anno l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore ha diffuso i risultati di un sondaggio importante, perché ha coinvolto decine e decine di manager di pubblici e privati. Abbiamo preparato sono circa 130 tra banchieri e manager, abbiamo preparato una scheda e poi lo commentiamo con chi l'ha coordinato. 349-238-6666 per i vostri sms. Mai come in queste settimane, la borsa incute timore ai risparmiatori. Eppure, come spesso accade quando si tratta di azioni, muoversi in controcorrente potrebbe alla fine rivelarsi la mossa vincente. Ne è convinto il 68% dei 130 tra banchieri, manager, imprenditori ed economisti intervistati dall'agenzia di stampa Radiocor in occasione del workshop Ambrosetti. L'ampia maggioranza del campione ritiene infatti che i ribassi dell'ultimo mese abbiano ridotto il valore di molti titoli a livelli da saldo e che pertanto le occasioni per fare buoni acquisti non manchino. Quasi un intervistato su tre ritiene al contrario che i cali di borsa siano destinati a proseguire. E c'è anche chi, come il presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco, è addirittura convinto che per i mercati azionari il peggio debba ancora venire. Nel complesso prevale un moderato ottimismo anche sulle prospettive dell'economia reale. A temere una nuova fase recessiva è il 38% degli interpellati, mentre il 62% ritiene che questo rischio sarà scongiurato. In ogni caso, la situazione rimane estremamente incerta e delicata, e per questa ragione quasi i due terzi degli intervistati reputano che la Banca Centrale Europea dovrebbe mantenere i tassi al livello attuale dell'1,5%, mentre appena il 4% approverebbe un ulteriore innalzamento del costo del denaro. Il restante 32% vedrebbe viceversa con favore una riduzione dei tassi decisa da Francoforte. Tra le soluzioni che potrebbero aiutare il vecchio continente a superare questa fase di impasse è quasi un plebiscito per gli eurobond, giudicati positivamente da poco meno dell'88% dei 130 intervistati. Soltanto il 12% li reputa insufficienti o inefficaci. Allora, Isabella Tasso, caporedattrice di Radio Core, l'agenzia di stampa del Sole 24 Ore, che ha coordinato questo sondaggio. Buonasera innanzitutto, Isabella. Buonasera. Buonasera. Poteva andare peggio, adesso poi sentiremo i nostri ospiti che forse saranno più caustici, però interessante vedere che insomma 7 su 10 sono pronti a comprare azioni. Sì, suona paradossale in una giornata come oggi, ma secondo la maggior parte degli intervistati del nostro sondaggio, 130 banchieri, manager, imprenditori ed economisti, ritengono che sia arrivato il momento di tornare a comprare. Questo non perché l'economia abbia prospettive rose, né perché ci sia incertezza sui conti, ma perché i prezzi sono da saldo. D'altra parte la Borsa di Milano ha perso circa il 30% da inizio anno, alcuni titoli oltre il 50%. L'altra cosa che è interessante in questo, da quello che emerge dal sondaggio che viene fatto, ripeto, ogni anno, quindi ha anche la sua capacità di essere confrontato anno su anno, è insomma il plebiscito sulle obbligazioni europee. Tutti ritengono che per uscire da questa impasse ormai i singoli stati non siano più sufficienti. Sì, sugli eurobond è un vero plebiscito, quasi tutti d'accordo, quasi l'88% degli intervistati ritengono che sia uno strumento adatto a poter affrontare la crisi dell'eurozona in corso, per quanto la maggioranza ritenga che sia di difficile realizzazione. Ricordiamo che Germania e parte anche la Francia si sono detti finora nettamente contrari a questa ipotesi. E la cosa che più ti ha sorpreso del sondaggio, visto che ogni anno voi lo riproponete più o meno con gli stessi intervistati? Isabella? Ma la cosa che sorprende è senz'altro questa apertura, diciamo, non di ottimismo, ma quantomeno di cauta fiducia nelle prospettive, sì, di meno male rialzo che non l'avete mercato. Fatto oggi, mettiamola così, perché oggi forse le risposte sarebbero state forse un po' diverse. No, ma in realtà, al di là della battuta, queste sono prospettive di medio e lungo termine. Grazie alla collega delle Corriere del 24 Ore, Isabella Tasso, e leggo già alcuni messaggi. Sì, non ho dato, avete ragione, chiedo venia alle borse europee che sono tutte negative, come ricordavamo in apertura, -3,6 Parigi, -3,6 anche Francoforte, quelle che si avvicina a Milano, che resta la peggiore, è Madrid, -3,90%, Londra perde il 2,5%, l'America l'1,80%, il gufo non ce lo siamo portati a Cernobbio, quindi è rimasto a Milano e non lo usiamo. Vorrei invece adesso iniziare a ragionare dei temi di questa edizione del workshop Ambrosetti, ascoltando in primo luogo che cosa ha dichiarato Mario Monti questa mattina proprio da Cernobbio, anticipando quella che poi sarebbe stata la lettera che è arrivata dall'Europa. Penso che anche da parte dell'Italia ci sia in questo momento una grande necessità di avere un comportamento responsabile e che non alimenti, come purtroppo sta avvenendo in questi giorni, un ritorno di sospetti di fondo nell'opinione pubblica di alcuni paesi europei circa la serietà del nostro paese. Dopo la credibilità conquistata nel corso di diversi anni, sarebbe un peccato tornare ad una fase primordiale in cui molti in Europa si interrogano sul carattere degli italiani. il carattere degli italiani, sembra di tornare, diciamo, ai testi risorgimentali, però insomma questo è veramente quello su cui si interroga in questo momento l'Europa, e lo chiederemo anche ai nostri ospiti. Adesso ci ha raggiunto, lo ringraziamo, nella nostra postazione qui a Villa d'Este, Workshop Ambrosetti, Fulvio Conti, che è l'amministratore delegato dell'Enel. La prima domanda, insomma, va subito sulla manovra, dottor Conti. Alla luce anche di quello che teme, e teme per esempio la Corte dei Conti, ossia la possibilità che la Robin Tax, la tassa applicata a chi produce energia, sia e porti inesorabilmente a minori investimenti dei gruppi energetici italiani in Italia, ma c'è anche il timore che possa portare a costi per noi clienti finali, cioè che voi scarichiate poi sui clienti finali la tassa in più, anche se non potreste perché c'è l'autorità. Mi lasci dire innanzitutto che come Enel abbiamo sempre evidentemente rispettato tutte le norme e le leggi del Paese, siamo il primo contribuente del Paese, nel 2010 abbiamo versato 2 miliardi e 500 milioni di imposte, siamo al numero uno in assoluto. Se ci saranno altre imposte da pagare, evidentemente le assolveremo come nostro dovere. Sull'opportunità di questo ulteriore aggravio di imposte, le considerazioni che fa la Corte dei Conti sono condivisibili. Si colpisce un settore regolato che già di per sé ha prezzi bloccati da un'autorità indipendente che fissa i rendimenti sul capitale sulla base di imposte esistenti e di costo del capitale. Se si aggravano ulteriormente queste condizioni e non possono essere trasferite sui prezzi, evidentemente si ha uno svantaggio che non può che produrre come risultato una riduzione degli investimenti, con un impatto negativo per il sistema industriale italiano, per l'economia in generale. E quindi da chiedersi qual è la portata ultima, medio lungo termine, di questa imposta, che finisce per colpire uno dei settori più dinamici e che investe di più a favore dello sviluppo. La imposta sottrae risorse, queste risorse vengono direttamente a colpire il flusso di investimenti, e il risultato netto probabilmente è una riduzione di ricchezza per tutto il Paese. Ecco, mi scusi se insisto, ma lei quindi escluderebbe, visto anche il ruolo dell'autorità, una ricaduta per il cliente finale di quella che sarà l'onere della Robin Tax? Io credo che sia giusto e legittimo trasferire in un settore regolato il costo a chi evidentemente usufruisce del servizio. Credo che sia nella logica di un settore regolato. O deregolamentiamo il sistema, o se lo regoliamo dobbiamo consentire ai costi di essere passanti, altrimenti si distrugge l'algoritmo di creazione di ricchezza che sta nell'identificazione degli investimenti come un fattore di crescita. Ancora due cose: c'è chi è addirittura arrivato a definire quasi incostituzionale la norma, perché bloccando voi sul trasferimento dei costi aggiuntivi verso il cliente finale andrebbe a violare le regole elementari del mercato. Lei arriva a dire tanto? Ma guardi, dobbiamo attendere la formulazione definitiva della legge, parlarne prima non ha molto senso. Ci aspettiamo possibilmente delle modifiche che possano renderla meno, diciamo così, abrasiva, un pochino più consona a quello che è il sistema regolatorio che in questo momento diciamo così, regola il nostro mercato. Due rapidissime domande che facciamo a tutti i nostri ospiti. La prima: c'è molta dibattito, polemica sul fatto che dopo l'articolo di Warren Buffett, le decisioni in Francia, le dichiarazioni di Montezemolo, che chi più ha, chi più guadagna, contribuisca di più a quella che è la necessità di ristrutturare il debito del Paese. Lei è d'accordo o ritiene che sia un po' di demagogia? No, non c'è demagogia. Credo che ci sia una giusta attenzione da parte di chi può contribuire evidentemente a questo bisogno del Paese. Non mi sorprende se i redditi e i patrimoni possono essere colpiti da un'imposta una tantum per risolvere questo problema. Quello che mi sembra doveroso sottolineare è che colpendo le industrie che sviluppano ricchezza attraverso gli investimenti non credo che sia un buon mezzo per far fronte ad un'esigenza di breve periodo. La politica deve avere comunque sempre la logica del medio-lungo periodo e non reagire soltanto sulla base di esigenze immediate. E se deve farlo con misure che siano comunque in grado di mantenere il profilo di crescita necessario allo sviluppo del Paese. Infine, dalla prima giornata di lavori, la prima mattinata soprattutto, avete avuto Nuria Rubini che ha esercitato il suo ruolo un po' di gufo, di Cassandra. altri interventi. Dal suo punto di vista c'è stato più scetticismo di quello che lei non si attendesse, o in realtà al contrario una descrizione più rosea della situazione? Ma mi sembra di cogliere anche qui gli aspetti di short termism. Si tende sempre a ragionare come se oggi fosse l'ultimo giorno. Per fortuna non è così. Speriamo di no. C'è sempre un domani e noi dobbiamo, come imprenditori, avere il dovere della fiducia. Nel nostro mestiere bisogna credere nelle nostre capacità imprenditoriali attraverso gli investimenti, attraverso le efficienze, di poter far crescere le nostre aziende. Un paese, una famiglia devono seguire le stesse logiche, per cui al di là dei messaggi di preoccupazione o di sollievo che possono emergere dagli economisti, il mondo reale vive di fatti fondamentali. I fatti fondamentali sono quanto si può investire, quanto si può consumare, quanti sono evidentemente i rapporti di produttività che si possono generare nel paese. Questo paese ha le risorse per poterle, come dire, utilizzare convenientemente. Dobbiamo semplificare le norme, dobbiamo rendere possibile portare gli investimenti a fruizione. Se facciamo questo, questo paese ha grandi risorse, sia di uomini, sia di risorse finanziarie, sia di attenzione allo sviluppo, che possono essere dispiegate positivamente per una crescita. Grazie, grazie al presidente dell'Enel Fulvio Conti. Ci ha raggiunto nei nostri studi anche il vicepresidente di Confindustria, nonché presidente della Brembo, Alberto Bombassei. Buonasera anche a lei, presidente. Buonasera. Partiamo, riallacciamoci a quello che ha appena dichiarato Fulvio Conti, e quindi la prima parte di questi 3 giorni di lavoro. Anche lei ha trovato delle visioni tutte giocate sul breve termine, per carità, con quello che è successo a luglio ed agosto ce lo si poteva anche attendere, e ha trovato più pessimismo di quello che non si attendesse? Ma francamente, non essere un po' pessimisti in questo periodo direi che sarebbe un atto di poca coerenza con la realtà, quindi tutto sommato non trovo poi così pessimista anche le dichiarazioni negli interventi che sono stati fatti stamattina. Credo che invece alcune voci che tolgono un po' di pessimismo, come quella dell'oratore cinese, e oltretutto con oratore di grande esperienza, invece abbia dato anche un tocco di sano ottimismo che ci fa vedere che il mondo, come credo tutti sanno, sta andando a 2 velocità. Ci sono dei paesi che sono le economie tradizionali che stanno andando a velocità ridotta con tutte le difficoltà che conosciamo, e paesi emergenti che invece hanno dei numeri che tutto sommato ci fanno ben sperare per il futuro. Siccome questi hanno un'incidenza sul PIL mondiale di una certa rilevanza, credo che possiamo guardare il futuro anche con un certo ottimismo. Chiaro che dobbiamo guardare però la realtà e soprattutto quelle che sono le condizioni del nostro paese, che non sono particolarmente brillanti, come tutti sanno. Ecco, venendo al suo ruolo adesso in Confindustria, poi mi piacerebbe avere anche un commento sulla congiuntura vista invece dal gruppo che lei ha creato, ma la Confindustria ieri, dopo il direttivo, è uscita con un comunicato molto duro, molto critico nei confronti della manovra, oggi ripreso anche dalle agenzie per quello che riguardava le nuove norme sulla lotta all'evasione fiscale, dicendo sì, siamo d'accordo sulla lotta all'evasione, ma non si possono predisporre misure in maniera così frettolosa. Qual è la cosa che, al di là del technicalities, che lamenta di più come assenza in questa manovra? Io credo che quando gli italiani hanno scelto l'euro come moneta unica europea, e credo che da lì siamo stati anche protagonisti, non soltanto abbiamo aderito ma siamo stati i promotori di questa iniziativa, che credo che sia assolutamente stata positiva per il nostro paese. Ci siamo messi però in un campionato dove giocano paesi con delle velocità diverse dalle nostre, e quindi dobbiamo guardare con grande attenzione quello che fanno i paesi che sono più bravi di noi. Quindi l'obiettivo prioritario, se guardiamo la Germania, che se dovessimo confrontarci con una classe, il primo della classe, non è che dobbiamo inventarci tante cose. Guardiamo quelli che sono più bravi di noi, quello che hanno fatto per modificare alcune delle regole, e dobbiamo fare le stesse cose. Parlo delle pensioni, parlo anche della lotta all'evasione, come è stato detto ieri. Quindi credo che le misure che sono state prese oggi non siano sufficientemente adeguate per garantire al nostro paese quella crescita, l'abbiamo sentito anche stamattina da economisti importanti a livello mondiale, dove si dice appunto che un paese che ha un tasso di crescita modesto, addirittura negativo, è chiaro che va soltanto verso la recessione. Quindi noi dobbiamo sforzarci di creare, di avere una crescita adeguata per garantire una maggiore occupazione. Il problema dell'occupazione giovanile è un problema enorme, e poi soprattutto investire anche per il futuro. Questo credo che dalle misure che sono state prese non emerge, e quindi il giudizio mi sembra corretto nel dire che il giudizio nostro è insufficiente per garantire le cose che ho detto. Però è sembrata anche una critica, diciamo, alla debolezza del governo. Lei ritiene che serva una politica più forte in questo momento, e per forte che cosa si intende? Cioè, capace di imporre, con eventualmente mettendo la fiducia, la manovra finanziaria senza gli emendamenti, capace di varare misure impopolari? Cos'è la politica forte in questo, o il governo forte? Un governo che cambia in una settimana quattro soluzioni, direi che sicuramente non dà certo una dimostrazione di essere un governo forte. Poi è chiaro che un governo forte è anche quello che riesce a imporre le proprie idee, quindi è giusto che queste misure vengano dibattute, è giusto che si ascoltino anche le voci dell'opposizione, però alla fine soprattutto credo che sia giusto che si ascoltino le voci della parte del paese produttiva, che è quello che crea veramente la ricchezza di cui il paese ha bisogno. Ma lei per esempio avrebbe aggiunto un punto percentuale o due di IVA, o avrebbe portato le pensioni ai 67 anni? Perché insomma, o privatizzato, quindi ieri, guardi, nel direttivo si era iniziato nel entrare nel merito delle varie misure, ma credo che non ci competa entrare soprattutto in questo momento. Quindi le indicazioni Confindustria le ha date più di un'occasione, dicendo quali sono gli elementi fondamentali. È chiaro che, per esempio, se guardiamo la Germania, che manda in pensione la gente a 67 anni quando noi li mandiamo a 58, è chiaro che se quelli che sono bravi e ricchi fanno questo, è chiaro che anche noi prima o dopo dovremo risolvere il problema. E così anche tutta un'altra serie di cose, anche l'IVA in altri paesi è più elevata. Poi è chiaro che credo che si debba fare tutto, ma in cambio di una garanzia che possa garantire la crescita, come dicevo prima. Quindi ci deve essere uno scambio, quindi credo che tutti siamo pronti a fare dei sacrifici, ma in cambio di un programma preciso che possa garantirci di uscire da questa situazione. Ecco, lei quando chiede un governo forte, una politica quindi forte, questa mattina ha detto: beh, se Alessandro Profumo scendesse in campo, si mettesse in politica, sarebbe una buona notizia. Vale anche per Montezemolo? Ma sicuramente io credo che la politica, come tutte le altre attività, se qualche persona che ha già dimostrato di essere, oltre che una persona capace e per bene, vuol confrontarsi nella politica, credo che la politica non abbia che da guadagnare. Quindi ben venga Profumo, come ben venga Montezemolo un domani, che credo che abbia già dimostrato sia a livello industriale sia a livello confindustriale, quindi associativo, di aver fatto molto bene il proprio lavoro. Quindi penso che farebbero entrambi un ottimo lavoro anche in politica. Un'ultima domanda, che è quella che abbiamo fatto prima al Presidente Conti. Si è molto discusso di questa tassazione sui redditi più alti, i patrimoni più alti, le dichiarazioni dello stesso Warren Buffett, Montezemolo, Sarkozy, che ha preso misure in Francia. Lei è d'accordo che si tassino, diciamo, i redditi più alti o i patrimoni più alti, ma quelli veri, diciamo, non solo la parte residua che emerge al fisco, cioè dipendenti e pensionati? E se sì, come immagina questa solidarietà? Ma sicuramente le dichiarazioni che sono state fatte, soprattutto quelle di Montezemolo, che ho più presente, mi sembra abbastanza, assolutamente, anzi, condivisibile, nel senso che i redditi più alti è giusto che paghino di più. Quindi la difficoltà delle regole della politica è trovare quella proporzionalità che vada a colpire i redditi maggiori in senso proporzionale a quelli che hanno invece redditi, che siano redditi più bassi. Io credo che gli italiani, come hanno già dimostrato in altre occasioni, nei momenti del bisogno sono in grado di rispondere, e credo che tutti rispondano anche in questo caso. È chiaro che deve essere garantita l'equità, nel senso di un trattamento equo a qualsiasi livello, e non guardare alcune categorie e altre no. È chiaro, questo mi sembra che sia assolutamente da condividere. Per concludere, come presidente e creatore della Brembo, gli ordinativi, almeno dall'estero, stanno tenendo o c'è qualche rallentamento in questa secondo e terzo trimestre dell'anno? Ma nell'automobile direi che sappiamo che ci sono alcuni paesi che hanno rallentato. Questo è frutto non solo del mercato finanziario, ma credo che sia proprio anche dalle aspettative dei consumi che a forza di sentire notizie negative la gente rischia poi di comportarsi in maniera più prudente. Ma in generale direi che i numeri stanno mantenendosi, anche perché siamo soprattutto fornitori di mercati di esportazione come quello della Germania, dove non hanno assolutamente rallentato, e quindi per il momento direi con grande prudenza e anche un po' di scaramanzia non ci sono contrazioni di ordinazione. Allora in bocca al lupo anche alla Brembo e chiaramente a tutti i suoi dipendenti. Grazie al presidente. Grazie a lei. Alberto Bombassei. Grazie. Eh sì, perché insomma, come avete sentito, un altro dei temi che è emerso questa mattina dopo l'intervista di Alessandro Profumo sulla Stampa e dopo le voci su Montezemolo nei giorni scorsi e anche appunto l'ipotesi che l'ex numero uno di Unicredit possa scendere in politica. Ne parleremo, perché in realtà al di là dell'elemento più da gossip che ci interessa poco, è anche questo il segnale di una richiesta, di una tensione che riguarda anche la classe politica, se continuano a emergere, diciamo, ipotesi di nuovi ingressi da altri mondi nella classe dirigente politica. ...17:43 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso la borsa, un breve anticipo, poi avremo un commento più lungo dopo un'intervista che ci raggiungerà tra pochissimo Corrado Passera, numero uno di Intesa San Paolo, e commenteremo dopo anche la borsa in maniera più estesa. Vi do solo gli aggiornamenti dai mercati: male Milano meno 3,90%, la peggiore con Madrid meno 3,90%, male anche le altre borse europee, anche se non in maniera, oddio, Francoforte e Parigi sì, gli altri indici. Londra, possiamo dire che forse è quella che ha tenuto meglio oggi in Europa, Londra meno 2,3%, Francoforte meno 3,6%, Parigi meno 3,6%. L'America, i dati sulla disoccupazione americana sono quelli che hanno fatto peggiorare i mercati, come dicevamo, già negativi. Comunque l'America perde l'1,5% sul Dow Jones e l'1,6% sull'indice Nasdaq. Tra i titoli di cui poi e che poi commenteremo in maniera più estesa, segnalo UbiBanca meno 6,50%, il peggiore tra i titoli di maggiore capitalizzazione, Buzzi Unice meno 6,47%, Popolare di Milano meno 6% e Banco Popolare meno 5,50%, Unicredit meno 5,30%. Anche Intesa non se la passa bene, meno 4,82%, Fiat meno 5% per andare sui titoli industriali, e ancora Prysmian meno 5,70%. Pirelli meno 5,47%, Mediolanum meno 4,70%, Atlantia meno 4,60%, e 4,5% lo perde Saipem e anche il Monte dei Paschi. Fiat Industrial, ossia auto e trattori e camion, meno 4,1%, Mediaset meno 4%, gli energetici hanno subito e hanno pagato anche oggi, meno 4% Enel, e Eni un po' meglio, meno 2,70%. Il titolo migliore, Parmalat meno 1,14%, Campari meno 0,35%. Tra i migliori e peggiori in assoluto, ripeto, oggi la puntata, essendo in diretta da Cernobbio e dal workshop Ambrosetti, ha una scaletta un po' diversa, la borsa la faremo verso le 18:05, ma comunque, per chi potesse sentirla solo adesso, il migliore in assoluto è stato First Capital più 13,40%, e Crespi più 4,20%. Il peggiore in assoluto, oltre a Banca Carige meno 6,61% e Crédit Agricole meno 6,52%, Italcementi perde il 7%, Tassi il 7,1% e Cogeme l'11,1%. Vedo che ci sta raggiungendo il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Allora andiamo con il traffico e poi iniziamo a parlare con lui di politica, di manovra e anche di tenuta del sistema bancario. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:46 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, vorrei parlare con il numero di Intesa San Paolo, Corrado Passera, non tanto del titolo in borsa, perché l'accordo è anche questo, insomma non commentiamo l'andamento di un titolo, il dato l'abbiamo già dato, ma vorrei capire, viste anche, dottor Passera, le valutazioni che abbiamo appena sentito da parte dell'amministratore delegato di Enel Fulvio Conti e del vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, le valutazioni del direttivo di Confindustria arrivate tra ieri sera e questa mattina, molto critiche, dure sulla manovra e anche sulla parte che riguarda l'evasione fiscale. Insomma, noi, questo paese ha una situazione di avanzo primario o comunque non ha peggiorato, diciamo, c'è un quasi pareggio di bilancio sulla parte primaria, chiaramente. Non vi è stato un peggioramento. Perché secondo lei i mercati sono così severi con l'Italia che pur con conti difficili, ma non li ha peggiorati quanto altri paesi? Allora, lei ha detto una cosa molto importante. Noi partiamo da un risultato su cui abbiamo costruito sicuramente credibilità, quello dell'avanzo primario positivo. Poi siamo partiti bene con la manovra che doveva raggiungere il pareggio totale dei conti. A quel punto ci siamo un po' disuniti e abbiamo dato un senso di disordine, di non compattezza, di non chiarezza di intendimenti. Noi dobbiamo in tempi molto brevi, ma parlo di giorni, perché a questo punto i nostri creditori in giro per il mondo, l'Europa, la Banca Centrale Europea, i nostri creditori in generale vogliono avere la garanzia, ma la vogliamo noi stessi, che questo paese può entro 2 anni portare i conti in pareggio. Questo è il sine qua non per ricostruire affidabilità e credibilità intorno all'Italia. È fondamentale, è un grande passo, però alla fine noi saremo considerati non più a rischio e con un debito sostenibile quando avremo messo in moto anche una serie di iniziative per lo sviluppo, per la crescita, per il recupero della produttività, per il riavvio degli investimenti senza i quali si pensa che noi non saremo in grado in futuro di... Il nostro debito deve cominciare a calare in valore assoluto, dobbiamo tendere in pochi anni a portare il nostro debito al 100% del PIL, sotto il 100% del PIL. A quel punto possiamo riprendere la nostra posizione nella stanza dei bottoni a livello europeo, da cui oggi siamo un po'... Non mi sento di dire escluso, ma certamente in posizione non forte, essendo un paese che deve essere supportato, quasi salvato. Ecco, ecco, che cos'è che lei avrebbe inserito nella manovra? L'IVA, le pensioni? Allora, non c'è la misura magica, non c'è la singola iniziativa che può risolvere le cose. Noi i conti li portiamo in pareggio, la crescita la mettiamo in moto e il debito lo diminuiamo se mettiamo insieme in modo integrato tutto ciò che serve, dal completamento della riforma delle pensioni al più soldi in tasca alla gente, al riavvio degli investimenti privati e pubblici, a una riforma fiscale che smette di penalizzare solo lavoro e imprese e lo riequilibria sia sulle indirette che sulle rendite, come in parte si sta facendo, se lavoriamo per bene sulla, come in parte si sta facendo sull'evasione, se andiamo a vedere come valorizzare velocemente quell'enormità di patrimonio pubblico che può essere una fonte veloce di recupero di debito. Insomma, mi lasci dire che ci sono almeno una ventina di cose da mettere in parallelo e chi cerca la pietra filosofale o la soluzione salvifica continua con la pessima abitudine di troppo frequente nel nostro paese di fare la singola cosa. La crescita viene da competitività delle imprese, da funzionamento del sistema paese, da come funziona il welfare, dai processi decisionali, cioè è tutto insieme. Questa è la grande cosa che chiediamo alla politica, di mettere insieme un piano che metta insieme tutti questi aspetti. Quando si è su una macchina, e noi siamo tutti sulla stessa macchina, basta una gomma a terra che la macchina si ferma. Ecco, lei però, rappresentando un primario istituto di credito italiano, quando va all'estero si sentirà fare, immagino, in questo periodo anche domande non solo su Banca Intesa, ma anche sull'Italia in sé. L'80% ecco, nel roadshow è Sull'Italia. Sull'Italia e sull'Europa. Prima non era così, era il 20-80? Era molto diverso, adesso la preoccupazione, insomma il tema del debito sovrano è diventato una preoccupazione globale, del debito sovrano europeo è diventato, e noi dobbiamo velocemente togliere questa cappa di piombo che ci abbiamo addosso in Europa. Ecco, secondo lei questo interesse per l'Italia come paese e non solo per la banca che lei dirige è dovuto anche a una sfiducia non solo sulla manovra in senso stretto ma sulla classe politica italiana, governo e opposizione, non voglio entrare nel merito, cioè sulla capacità che ha, diciamo, la classe dirigente di nomina politica di affrontare non il presente ma anche le prospettive in un'ottica di medio termine? Guardi, il mondo è più razionale di quel che sembra e valuta sui fatti. E in certe occasioni noi non diamo abbastanza dimostrazione fattuale delle cose che diciamo di voler fare. Secondo aspetto, io vedo alcuni paesi muoversi come sistema nel momento della difficoltà. Adesso non voglio fare dei casi, ma alcuni casi sono clamorosi di come si sa lavorare insieme, istituzioni ed economia, maggioranza, opposizione. Cioè siamo in un momento di grande difficoltà. Cioè questo è un momento, come già altre volte in passato l'Italia ha dimostrato di saper fare, in cui bisogna insieme mettere in fila quelle cose che servono al paese. Mentre per ora, e le ultime settimane sono stata un'esperienza pessima da questo punto di vista, è il gioco dei veti incrociati, io non faccio questo se tu non fai quello. Questo è proprio il compito della politica, fare un piano che suddivida sacrifici, che suddivida benefici e che affronti tutti insieme i problemi che poi creano crescita. Altri paesi l'hanno dimostrato, noi in passato l'abbiamo dimostrato, oggi dobbiamo dimostrarlo. No, glielo chiedevo perché in questi giorni, anche oggi sui giornali, si discute molto di chi potrebbe scendere nel lagone politico, in campo politico, Montezemolo. In politica si sale, sì, non si scende. Allora chi potrebbe salire in politica da Montezemolo a Profumo? Lei teme che dietro questo ci sia un po' un'idea molto italiana del cavaliere bianco salvifico, oppure ritiene che invece un cambiamento nella classe dirigente, anche politica, sia in qualche modo ineludibile e necessario? Allora, c'è sicuramente bisogno di grande politica e di politica competente. C'è da ricostruire fiducia, perché i numeri di tutti i sondaggi dicono che c'è una grande parte dell'Italia che è sfiduciata un po' nei confronti dell'intera classe politica e classe dirigente in generale, perché poi è difficile dividere e differenziare le responsabilità. In tutti i paesi del mondo ci sono naturalmente delle immissioni dal mondo non politico. Se Alessandro Profumo dice, dopo aver fatto per 30 anni un mestiere, metto a disposizione la mia esperienza economica, finanziaria, internazionale per il mondo della comunità, a me sembrano segnali belli. Ecco, ancora due domande rapidissime. Secondo lei, in quello che lei citava come le misure che servono a poco anche perché restano isolate, c'è anche questa polemica sulla maggior tassazione, maggior apporto, maggior solidarietà che dovrebbe arrivare dalle fasce di patrimonio più alte, oppure è un tema per quanto non risolutivo sui conti ma di indubbia efficacia simbolica? No, secondo me è un tema reale, naturalmente sapendo vedere la situazione. Cioè noi siamo uno dei paesi dove il lavoro dipendente di qualsiasi livello, le pensioni, cioè tutto ciò che è ufficiale è stratassato. Cioè noi abbiamo anche i redditi elevati, dipendenti e ufficiali, con livelli di tassazione che quasi non hanno pari in giro per il mondo. E poi abbiamo una vastissima area di non rispetto delle regole, di occultamento di reddito. Quando diciamo che meno dell'1% degli italiani, in realtà è molto meno, dichiarano 100.000 euro e da questi togliamo dipendenti, pensionati e notai che non possono eluderlo, vuol dire che quasi nessuno lo fa. Cioè questo non è possibile. Quindi noi dobbiamo riequilibrare alla fine il peso fiscale, ma andando a mettere con misura, perché poi è una questione anche di misura oltre che di competenza, capacità, di meccanismi, su una platea più ampia il peso del pagare i beni comuni, perché poi alla fine tutti godiamo di sistema sanitario, di previdenza, di strade, piuttosto che di istruzione. Ecco, questa dovrebbe essere un'iniziativa che ci trova tutti molto insieme, ecco. E finora è stata solo parzialmente efficace. Per concludere, voi avete fatto da poco, a giugno, ma sembra passato quasi un secolo sui mercati, un aumento di capitale importantissimo, 5 miliardi, tra l'altro andato molto a buon fine. Ritenete che sia sufficiente e in questi giorni avete problemi di finanziamento sul mercato? Ci sono tensioni sul mercato oppure no? Beh, il fatto di aver anticipato l'aumento, di aver anticipato tutte le operazioni di raccolta a medio-lungo termine già l'anno scorso e all'inizio dell'anno ci ha messo in una condizione più gestibile di quella che avremmo avuto se dovessimo oggi ricorrere sul mercato in grandi quantità. Oggi praticamente dobbiamo solo più fare il 10% di ciò che ci serve per l'anno, quindi praticamente l'anno è passato e con le riserve che ci siamo messi da parte potremmo anche fare a meno del mercato esterno per 2 anni. Io non mi aspetto che l'attuale situazione sicuramente complessa rimanga per così tanto tempo. Però certamente, come dice lei, aver anticipato e aver messo un po' di fieno in cascina è venuto utile. Grazie, mi sto regalato il gruppo Intesa San Paolo, Corrado Passera. Arrivederci. Allora, leggo molti messaggi, adesso ci avviamo al GR, cercheremo anche di rispondere a molti di questi. Ripeto, sull'andamento delle azioni di Intesa San Paolo non era il caso intervenire. Adesso lascio però la linea al GR, poi torniamo a commentare la borsa e a dare anche qualche risposta sui mercati finanziari. Allora c'è una doppia lettura e così la chiudiamo, poi la riprendiamo se volete. Da un lato lo spread tra Italia e Germania sui BTP Bund è tornato a livelli molto alti, sopra i 330 punti, e questo è un segnale di sfiducia nei confronti dell'Italia, inesorabile e inequivocabile. E c'è stata anche una nota preoccupata della Commissione Europea. Poi i dati americani sulla disoccupazione hanno fatto il resto oggi sul mercato. Per la prima volta dal 1945 l'America non ha creato neanche un posto di lavoro, gli analisti si attendevano almeno 70.000 posti di lavoro in più, e questo ha influito su tutte le altre borse, un po' meno come vediamo sull'America che continua a perdere l'1,7%. GR adesso 349-238-6666 per i vostri sms e poi il commento articolato di borsa, e dovrebbe essere il nostro ospite dopo Luigi Abete. Le 18:06, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni qui dagli studi di Radio 24 a Villa d'Este per la prima giornata di lavori del workshop Ambrosetti. Abbiamo ascoltato, oltre che il sondaggio realizzato come ogni anno dall'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, anche il giudizio sulla manovra politica e sulla manovra, scusatemi, finanziaria e sulla classe politica di Fulvio Conti, numero uno dell'Enel, di Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria, prima del GR di Corrado Passera, con anche i timori, riferiva lo stesso Passera, a mio avviso molto interessante quel passaggio in cui diceva, insomma, ormai l'80% delle volte che sono all'estero mi chiedono dell'Italia e non della banca, non di Intesa San Paolo. Una volta era praticamente l'opposto. Questo a segnalare che c'è un timore estero sulla tenuta del paese. Abbiamo ricordato come oggi sia arrivata una nota della Commissione Europea su quelli che sono gli incassi che il governo si attende dalla lotta all'evasione, incassi che sappiamo essere più presunti che reali in molti casi, e su questo è preoccupata l'Unione Europea. Lo spread tra BTP e Bund è tornato purtroppo a un livello molto alto, quindi quanto costa in più all'Italia trovare finanziatori per il suo debito è tornato a un livello sostanzialmente vicino a quello di fine luglio e inizio agosto, 324 punti. E poi le borse penalizzate, Milano e Madrid le peggiori, meno 3,90% ambedue, non bene chiaramente nemmeno Germania e Francia, Londra un po' meglio, perde il 2,5%, e l'America in calo dell'1,6%. In questo caso il motivo si chiama dati americani sulla disoccupazione: non si è creato in America nessun posto di lavoro per la prima volta dal 1945 45 e ripeto, gli analisti si attendevano 70.000 posti in più ad agosto. Tanto è bastato, quindi il combinato disposto dei timori in Italia sulla finanziaria, in generale sulla tenuta dei debiti europei e poi sul rischio recessione in America. Oggi qui da Cernobbio è intervenuto anche Nuria Rubini, uno degli economisti considerati guru, anche se gufo a livello mondiale, e che ha detto: attenzione, il tracollo dei mercati finanziari in Europa e in particolare in Italia è strettamente collegato al clima di incertezza della politica italiana. Adesso commentiamo però i singoli titoli, lo facciamo come sempre con Radio Corius Sole 24 Ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Male, come sempre avviene in questi casi bancari, UbiBanca meno 6,48%, Popolare Milano meno 6%. Su questo, tra l'altro, il presidente della Banca Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, entrando qui a Cernobbio ai lavori del workshop, ha detto: se Matteo Arpe vuole entrare nel capitale con il fondo Sator, molto se ne è discusso in questi giorni, è benvenuto nel capitale della banca. Chiuso l'inciso, dicevo, particolarmente male le banche, più che altro con l'andamento dei titoli di Stato, Paolo. Sì, esattamente, proprio il motivo principale secondo gli operatori è proprio il tornare delle tensioni sui titoli di Stato italiani, come ricordavi anche tu. Di cui le banche sono piene. Esattamente, di cui nei portafogli delle banche ce ne sono molti, come ricordavi tu, lo spread tra i BTP e il Bund oggi è tornato a salire oltre quota 320 punti base, cioè dell'8,5% rispetto a ieri. Inoltre, su tutto il settore bancario pesa la notizia riportata dal Wall Street Journal, secondo la quale la Federal Reserve americana, con una mossa non proprio frequente, anzi poco consueta, ha chiesto a Bank of America di presentare un piano programmatico che evidenzi le possibili strategie in caso di peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istituto. Questo è un campanello d'allarme che è pesato su tutto il settore bancario. A livello europeo il sottoindice del comparto ha perso il 4,3%. Sì, tra l'altro mi devo correggere perché purtroppo Milano è la peggiore, nel senso che alla fine la Spagna ha leggermente ricorretto, l'Ibex 35 chiude con un meno 3,4%, e appunto Francoforte meno 3,3%, Parigi meno 3,5%, Milano meno 3,9%. Ti ho interrotto, Paolo, scusa. Sì, no, dicevo appunto che c'è anche questa notizia di questo intervento della Federal Reserve che ha chiesto a Bank of America di presentare questo piano in caso di peggioramento delle condizioni finanziarie. Naturalmente, secondo i pessimisti, segnala un possibile proprio peggioramento della situazione di Bank of America, e quindi gli investitori hanno venduto i titoli delle banche. A Milano la peggiore appunto è stata UbiBanca, ma tutto il settore ha perso terreno. Uscendo dalle banche, intanto concludo però con la lista dei cali. Oltre a UbiBanca e Popolare di Milano, il Banco Popolare ha perso il 5,50%, Unicredit il 5,33%, Intesa San Paolo il 4,82%, il Monte dei Paschi il 4,50%, e poi sul fronte bancario Mediobanca meno 3,20%. Spero di non aver dimenticata nessuna tra quelle principali. Dicevo, oltre al fronte bancario c'è anche il timore di cui abbiamo parlato in apertura del programma proprio con Fulvio Conti, con l'amministratore delegato di Enel, di un effetto della Robin Tax sui gruppi energetici. Mi sembra possa essere questa, ma correggimi se sbaglio, la spiegazione per un calo di Enel intorno al 4% ed Eni del 2,70%. Sì, sì, esattamente, proprio mentre i titoli più ciclici hanno perso terreno proprio per i timori sulla tenuta della ripresa economica globale dopo il dato americano, i titoli energetici hanno risentito proprio, se hanno di nuovo, del problema del caso Robin Hood Tax. Conti ha sottolineato che così com'è la Robin Hood Tax potrebbe portare a una riduzione degli investimenti e anche dei dividendi, e quindi naturalmente la cosa ha preoccupato ancora di più gli investitori che hanno deciso di vendere il titolo. Enel ha perso praticamente il 4%, cioè il 3,97%, chiudendo appena sotto la quota 3,3 euro per azione. Ancora invece su notizie più specifiche, Mediaset in borsa oggi si è mossa molto anche su voci di un possibile cambio al vertice. Facciamo Mediaset ma anche Telecom, che tutto sommato ha cercato durante la seduta di limitare i danni. Sì, per quanto riguarda Mendes si tratta di indiscrezioni tornate sul mercato, anche se smentite in passato dalla società, di un possibile avvicendamento al vertice con un'uscita dell'attuale amministratore delegato Giuliano Adreani. Come dicevamo, sono notizie che in passato la società ha smentito, ma il ritorno di queste indiscrezioni ha alimentato l'incertezza sulla società, che già in passato aveva risentito di altri fattori, soprattutto del calo della raccolta pubblicitaria. Oggi il titolo ha perso il 4,04%. Per quanto riguarda Telecom Italia, per gran parte della seduta ha tentato di limitare i danni, ha chiuso con una flessione allineata a quella del listino, ha perso il 3,66% e oggi l'amministratore delegato del gruppo di TLC, Marco Patuano, ha confermato quello che già appariva abbastanza evidente per quanto riguarda la manovra economica, cioè che il governo al momento non ha intenzione di applicare la Robin Tax anche alle società di TLC. Anche Patuano ha sottolineato questa convinzione, quindi da questo punto di vista almeno c'è un sospiro di sollievo per gli investitori. Allora, i migliori e i peggiori in assoluto: First Capital più 13,40%, Crespi più 4,18%, Expriviva più 9,54%, sono titoli molto sottili come sentite. I peggiori invece: Carige meno 6,61%, Credit Agricole meno 6,50%, Italcementi meno 7%, TAS meno 7,1%, Cogem meno 11%. Grazie, buon fine settimana a Paolo Paronetto e a tutti i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore. Grazie, buon fine settimana a voi. E adesso io direi andiamo, visto che ci ha raggiunto, e lo ringrazio, Luigi Abete, Presidente BNL, per parlare di manovra finanziaria, di classe politica, di nuovi ingressi, appunto, Montezemolo, Profumo e quant'altro, e possibili potenziali nuovi ingressi. Direi di andare adesso subito con le informazioni sul traffico e poi ragioniamo di quello che sta emergendo anche da questa prima giornata di lavori, magari cercando di non commentare solo la quotidianità della borsa, ma con un ragionamento un po' più di medio respiro. 349-238-6666 per i vostri sms. E 16 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda e ultima parte di Focus Economia. Allora, Luigi Abete, presidente del gruppo BNL BNP Paribas, ex presidente di Confindustria, tra l'altro proprio in un periodo come quello del 92-93, in cui fu la cacciata della lira dal sistema monetario europeo, un accordo anche con le parti sociali. Prima domanda molto semplice: dalla prima giornata di lavori qui a Chernobyl, il workshop infatti dello studio Ambrosetti a porte chiuse, noi non possiamo assistervi, solo voi che siete invitati, secondo lei è emerso uno scenario un po' più roseo di quello, anche se con questa giornata di borsa sembra un paradosso, di quello che si può immaginare, oppure il pessimismo, diciamo, la faceva da padrone? Beh, direi che anzi stamane a mio avviso è uscita una tematica di riflessione che non ha un percorso chiuso, usiamo questa espressione, nel senso che sia sul rischio di una ulteriore fase recessiva, sia sul rischio di una, tra virgolette, crisi dell'euro, le motivazioni di coloro i quali erano pessimisti e di coloro i quali erano fiduciosi hanno in qualche misura anche diviso la platea dei partecipanti, talché ai sondaggi che si sono poi effettuati i gruppi sono divisi quasi al 50%, dato che parliamo di interlocutori quali sono del mestiere, sono consapevoli delle tematiche, la lettura che io do è che il futuro è nelle nostre mani, nel senso che se noi saremo in grado di governare bene i processi economici e i processi normativi e finanziari, probabilmente si avvererà la prospettiva più positiva, cioè che pur in un rallentamento dell'economia non avremo una ulteriore fase recessiva, perché la crescita dei paesi emergenti, il ruolo della Cina saranno, diciamo, trainanti rispetto anche alle economie europee. E nell'economia europea il ruolo della Germania si conferma un ruolo leader, e da quell'altra parte che i rischi di una crisi dell'euro sia siano allontanati da una buona gestione di questa fase storica, e in particolare qui emerge il ruolo dell'Italia, perché è evidente che una buona gestione del debito pubblico italiano e dell'economia italiana nei prossimi mesi sarà un elemento di forza per eliminare questo rischio. Io, come ho detto, sia sul primo che sul secondo obiettivo sono abbastanza fiducioso, perché penso che la forza delle cose, della storia, è molto più forte della incapacità degli uomini. Quindi il mio giudizio non è un giudizio di merito tecnico. La mia esperienza ormai è, purtroppo, è pluriennale, e io ho sempre visto che sia l'Europa sia l'Italia all'ultimo giorno hanno preso la decisione giusta. Certo, sarebbe auspicabile che le decisioni giuste non venissero prese l'ultimo giorno, né in Europa né in Italia, ma questo dipende dalla qualità del ceto politico, e noi indubbiamente oggi abbiamo un problema in termini di sistema istituzionale e anche di capacità di gestione dei ruoli da parte del ceto politico, che è indubbiamente in forte difficoltà. Poi che questo dipenda in che percentuale dalle regole, in che percentuale dalla carenza e dalla debolezza degli uomini o dei partiti, ognuno ha la sua idea. Io penso che coesistano tutte e due le cause, sia la legge elettorale, che indubbiamente non ha favorito una crescita di un ceto dirigente responsabile e autonomo a livello politico, e che quindi deve essere assolutamente cambiata se vogliamo fare un passo avanti in questa direzione, sia il fatto che il quadro politico che ne è uscito è un obiettivo molto corporativo, di tutela degli interessi legittimi più vicini, dimenticando che anche gli interessi legittimi più vicini si tutelano meglio all'interno di un quadro generale di sviluppo e di stabilità, altrimenti si corre il rischio, come sta accadendo in queste settimane, che ogni tre giorni si cambia la manovra, perché un giorno si fa una proposta e il giorno dopo protestano alcuni, il terzo giorno ci si rende conto che colpire solo quei ceti è anche ingiusto in qualche misura, e quindi si fa un'altra proposta il quarto giorno. Il quinto giorno protestano i ceti che vengono toccati dalla seconda proposta, e quindi il sesto giorno. Capisco che sembra una filastrocca, ma non l'ho inventata io, è quello che sta succedendo in Italia in queste settimane, che leggiamo ogni giorno sul giornale, quindi non faccio nient'altro che fotografare la situazione. Io faccio parte di una categoria che pensa che i cittadini italiani, come hanno già dimostrato nel 92-93, e io in quell'occasione ne sono stato parte attiva perché ero presidente di Confindustria, sanno assumere anche un grado importante di sacrifici all'interno di due condizioni fondamentali che non sono, come dire, però ineludibili. Il primo è che i sacrifici tocchino tutti. Non si può pensare che in un momento in cui si chiedono dei sacrifici si chiedono solo ad alcuni ceti e non ad altri. Bisogna intervenire sulle pensioni, sul fisco, sulle privatizzazioni, sui servizi pubblici locali, sulle infrastrutture, insieme, con un progetto unitario in cui ognuno possa valutare vantaggi e costi di questo progetto. Io penso che così facendo noi avremo fatto un passo in avanti nel modernizzare il Paese, e avremo il consenso anche di coloro i quali pagano dei costi. La seconda condizione, che a mio avviso è ineludibile per realizzare questo percorso e questo obiettivo, è che si dia una prospettiva di crescita che è essenziale per ridurre la percentuale del debito rispetto al PIL, perché se noi non riprendiamo a crescere, per quanto conteniamo il debito, evidentemente manterremo una situazione sempre molto difficile, sempre più in difficoltà, e sia soprattutto per motivare coloro i quali devono fare la scelta di assumere dei sacrifici o di cambiare il proprio sistema di vita. Se hanno la prospettiva che con questi provvedimenti integrati da un lato si risana il Paese, dall'altro c'è la prospettiva di crescita, quindi occupazione per i giovani, sviluppo per le aree più deboli, riequilibrio territoriale, riadeguamento della distanza che si sta realizzando tra i ceti abbienti e i ceti non abbienti nel nostro Paese, che si dualizza sempre di più, e le persone rispondono in un modo. Altrimenti immaginare che le persone siano così lungimiranti di assumersi il rischio senza avere una prospettiva, mi sembra, su questo la politica è assolutamente assente. Allora, il suo giudizio sulla manovra, intesa come manovra di breve respiro, è troppo legata a interessi corporativi, per cui diventa una manovra elastico che si allunga e si dilata a seconda degli interessi, punto... è molto chiaro. No, mi chiedevo una cosa, visto che prima il presidente Bombassei ha detto ma non solo Profumo, anche se Montezemolo scendesse in politica sarebbe una risorsa. Lei è d'accordo che all'interno di un rinnovamento della classe politica possa scendere in campo anche una persona come Montezemolo? Guardi, io penso che i cittadini italiani hanno tutto il diritto, se vogliono, di fare politica. Lo devono la devono fare in una logica di trasparenza, di separatezza da altri ruoli e di come dire, consapevolezza che tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Purtroppo queste tre condizioni nella storia politica del nostro paese spesso non si sono verificate, usiamo questo eufemismo perché io amo parlare anche diciamo, lasciando sognare tra virgolette i miei ascoltatori. Vabbè, un conflitto di interessi si capisce sotto no, no, ma, no dire... non, ma non parlo solo di quello che, diciamo, del numero uno, parlo in generale, voglio dire, del paese. Quindi sotto questo punto di vista tutti quelli che lo vogliono fare lo facciano, se decidono di farlo decidano di farlo e lo dicano, e se decidono di farlo taglino, come dire, i rapporti con quelli che sono altre attività, altri mestieri, altri interessi e si dedicano al cosiddetto bene comune. Questo vale per tutti, vale quindi, per se lei. Se ho capito bene, Montezemolo potrebbe scendere in politica a parte che uscisse, insomma, dalla Ferrari, vale, dalle TV. Vale per Montezemolo, vale per lei, vale per me, vale per Profumo, vale per chiunque, vale per il sindacalista che ha fatto il sindacalista, vale per l'avvocato che quando va a fare il parlamentare deve dimenticarsi di, diciamo, di tutelare l'interesse degli avvocati, vale per l'assicuratore. Cioè, questo è un problema di cultura, sì. Diciamo, del paese. Se noi questa cultura del paese non la applichiamo a tutti, è evidente che poi difficilmente facciamo dei passi. No, ma visto che lei fa anche l'editore, se io titolassi sì, Montezemolo in politica, ma a patto che risolva come tutti i conflitti di interesse, non andrei. No, no, titolerebbe male. Innanzitutto perché personalizzerebbe su Montezemolo. Io non ho, come dire, non ho fatto un commento su Montezemolo, ho fatto un commento su tutti. Ieri mi sembrava che i giornali stamattina avessero, come dire, lanciato tra virgolette una disponibilità di Alessandro Profumo, certo, che peraltro a me ha detto che voleva, come dire, dare una dimostrazione di attenzione e non fare l'autocandidatura. Cioè, Profumo le ha smentito che vuole scendere in politica? Non me l'ha smentito, mi ha detto che ha fatto una dichiarazione di buon senso e non si aspettava che uscisse fuori tutto questo. Forse la fame è così tanta che basta una dichiarazione di buon senso. Questo forse questa è la riflessione più intelligente che ho fatto in questi minuti. No, ma non volevo dare un giudizio sulle sue domande, volevo semplicemente invece trarre dal colloquio con lei, che mi sembra come al solito sempre molto utile perché diciamo, è coordinato, c'è una tale esigenza di ceto dirigente tutte le persone che hanno una visibilità, dei risultati alle spalle, una credibilità personale, vengono tra virgolette associate ad un obiettivo più ampio, perché evidentemente le persone non riescono a trovare questo percorso in altri ambienti, in altre realtà. Il fatto che nel mondo dell'impresa questo accade in modo più percentualmente diffuso mi sembra anche abbastanza normale. Il mondo dell'impresa è normalmente fatto di persone le quali rischiano di più, le quali si misurano con i risultati, quindi però dobbiamo anche essere consapevoli che essere un buon imprenditore non significa essere un buon politico. Parlo del passato o del futuro? Parlo del passato, del presente e del futuro, perché io so benissimo che le caratteristiche dell'imprenditore sono molto positive, ma per fare politica ci vogliono altre caratteristiche, ci vuole la tolleranza, ci vuole l'attenzione alle esigenze degli altri, sì, e ci vuole l'equilibrio. Grazie a Luigi Abete, siamo veramente in conclusione di questa diretta, grazie al Presidente del BNL Beppe Paribà, speriamo che lunedì i mercati ci concedano un po' di tregua, è veramente la fine di questa puntata di Focus Economia e anche della settimana di Focus Economia, a me non resta che ringraziare Pietro Accorte e Davide Cioccia per l'assistenza in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, da Sebastiano Berisoni a voi tutti l'auguro di un buon fine settimana e dimentichiamoci anche dei mercati finanziari una volta ogni tanto, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.